avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire. Su molti giornali questa mattina, tablet. Ratzinger clicca sull'iPad e lancia le news vaticane. Una notizia data in tantissimi giornali. Questa mattina verrà inaugurato il nuovo portale dedicato alle news del Vaticano, news.va, creato e realizzato dalla Santa Sede. E quindi nel pomeriggio, durante i vespri per la festa dei Santi Pietro e Paolo, il Papa metterà online questo sito e lo farà usando un iPad, un tablet. Adesso non so bene la marca esatta del tablet, fortunato chi riuscirà a mettere nelle mani del Papa il proprio tablet. Notizia in sé normale, non ha nessuna rilevanza, particolare rilevanza, se non mi fa riflettere la costruzione di questo evento. Giusto che il Vaticano metta online un sito di notizie, perché molte sono interessate, è interessante comunicarsi. L'escamotage è che il Papa, il più grande testimonial del Vaticano, mette online lui personalmente questo sito di notizie, quindi dando un imprimatur di segno superiore, lo fa usando un tablet, che non è proprio lo strumento più adatto per mettere online un sito. Ma perché? Perché simbolicamente è qualcosa che racchiude la tecnologia, è qualcosa che ha uno schermo touch, quindi il Papa lascerà la sua impronta sullo schermo di questo tablet, quindi anche un significato profondo. Il tablet con cui il Papa ha messo online il sito delle notizie del Vaticano potrà essere conservato, perché ci rimane l'impronta del Papa, e un domani potrebbe quasi diventare una reliquia. Guardate come antichi e profondi significati assumono rilevanza nella contemporaneità. Per lanciare, e giustamente deve essere lanciata come un qualsiasi altro prodotto, l'idea di un sito di notizie, si usa una costruzione che mette insieme la tecnologia, mette insieme qualcosa di antico, come il tocco che può avere un papa. I papi una volta potevano guarire semplicemente con il tocco, il papa era anche taumaturgo proprio per il fatto di essere il tramite diretto, il pontefice fra l'assoluto e il mondo degli uomini. Quindi tutto questo racchiuso in una forte idea di lancio. Beh, io questa mattina mi pongo la domanda, una domanda a cui può rispondere sia il laico, sia il non credente, sia l'agnostico, sia l'arrabbiato ateo, sia appunto il credente, il praticante, il profondamente praticante, il mistico. Come, in che maniera è necessario, è importante che la fede, la religione, il valore profondo dell'assoluto possa essere comunicato? Viviamo nel mondo della comunicazione, dicono almeno, tutto deve essere comunicato. Comunicare significa esistere, quindi anche qualcosa di così sfuggente rispetto alle logiche del mercato deve comunque essere comunicato. Lo dimostra questa mattina l'idea che per lanciare un sito di notizie vaticane si mette in campo il Papa, che sfiora con le sue dita il tablet. Santo Padre, signori cardinali, sempre più persone si allontanano dalle nostre parrocchie, dalle nostre chiese, sempre più gente preferisce starsene a casa. E che cos'è che tiene la gente chiusa, rindanata nelle proprie case? La tecnologia. Sì, signori, a casa la gente c'ha il televisore full HD. E che ci sta il televisore full HD in chiesa? No, e uno a casa c'ha la connessione internet 24 ore su 24. Che in chiesa ci sta la connessione internet 24 ore su 24? No. Che se io potremmo attaccare la connessione wireless del supermercato a fianco, all'angolo, che entra in sacrestia. Ma padre Giorgio, è peccato, lo sa. La chiesa deve saper stare al passo coi tempi. Per esempio, lei, santo padre, quanti amici ha su Facebook? Dica la verità. Due, io e padre Boi, e sono anni che aspetta che Gesù accetti la sua richiesta d'amicizia. Per approfondire questo argomento abbiamo stilato una classifica dei siti internet più visitati. Ecco qua, dunque, al primo posto abbiamo ovviamente Facebook, poi dopo abbiamo il sito ufficiale del Milan, il blog di Checco Zalone, una serie interminabile, vede, guardi, i siti porno, ecco, e dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Padre Giorgio, dov'è Gesù? Non lo so, facciamo una ricerca su Google. No, lasci stare che ho già cercato io, c'è solo una pizzeria in Messia in centro. Io era proprio con Skype. E adesso vi segnalo un altro paradosso. La mia introduzione ha descritto qualcosa che appartiene alla cronaca. Una costruzione di una notizia, perlomeno il rafforzamento di una notizia attraverso un escamotage, non lo dico con pieno rispetto, ma tale è per dare forza, esistenza e diffondere questa notizia, l'uso da parte del Santo Padre di un tablet. Lo sketch che avete sentito è uno sketch tratto da un fortunatissimo programma comico di cui io vado entusiasta, che è Soliti Idioti, dove appunto la coppia comica del momento, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, interpretano uno dei tanti sketch del loro programma, che è la storia di due sacerdoti, poverini, lievemente rozzi, l'avete sentito dalla parlata dialettale delle macchiette, che sono sempre di fronte a un grande tavolata piena di cardinali cupissimi, molto preoccupati nell'ascoltare quello che dicono queste due persone, e di spalle, si vede sempre di spalle, su un trono il Papa. Il loro compito è quello di fornire strategie per comunicare meglio la Chiesa. Naturalmente è uno sketch comico, naturalmente non ha nulla di serio, naturalmente gioca sempre sul sottile filo dell'ironia, non è mai dissacratorio, non è mai volgare, non è mai pesante, però tocca dei punti cruciali. Vedete, loro giocano sul fatto che la tecnologia, l'esaltazione della tecnologia, il seguire l'onda lunga della tecnologia, il glamour del tecnologico, il fascino del tecnologico, quel senso di impalpabile, indefinibile che ha ogni tecnologia. La tecnologia assomiglia un po' tanto la liturgia, il sedersi davanti a un computer, usare un computer, mettersi in contatto con la propria folla di amici o presunti tali davanti a un social network, assomiglia un po' a qualcosa che ha con una sorta di riunione comunitaria. In fondo si celebra tutti lo stesso tipo di funzione, si sta tutti davanti a un monitor, si toccano gli stessi tasti o si sfiora lo stesso schermo e si hanno le stesse operazioni per tenersi in contatto, per stare vicini. Beh, guardate, lo sketch comico in realtà sembra precedere quella che è la notizia, ma in realtà è realmente così, accade esattamente questo. 800240024, come la pensate voi? Qualunque sia il vostro punto di vista, qualunque sia la vostra percezione del sacro, del religioso, dell'assoluto, delle organizzazioni che comunque parlano di religione, ma abbiamo citato la Chiesa Cattolica, potrebbe essere qualsiasi altra organizzazione che vi ha colpito. Ecco, qual è la maniera per cui il sacro debba essere comunicato? È necessario che sia comunicato? È necessario che vada seguendo il corso dei tempi, quindi si modernizzi per essere comunicato? 800240024. Noi invece dobbiamo essere in grado di proporre al nostro pubblico una versione più aggiornata, più tecnologica delle Sacre Scritture. Per esempio, potremmo dire loro che le tavole della legge erano in realtà degli iPad della legge. E i tre magi che hanno trovato la grotta di Gesù seguendo la stella cometa, ma chi ci crede? Hanno consultato Google Maps. E quando Gesù diceva che andava nel deserto 40 giorni a far digiuno, ma di che stiamo a parlare? Quello stava nella cameretta sua a aggiornarsi il profilo di Facebook. Eppure a chattare con gli apostoli tutto il giorno sul PC. Su Mac. Gesù aveva un PC, mi scusi. Ma secondo lei Gesù poteva andare in giro col PC? Quello c'ha un Mac bianco, simbolo della purezza, immune ai virus, il male. Il Mac lo sanno tutti che è da 800240024. Vedete come i sintomi dell'eccellenza che danno un imprimatur ad alcune tecnologie rispetto ad altre vengono assorbite e trasposte da questi due innocenti pretini che in fondo cercano di fare il meglio che possono, hanno avuto un mandato. Vi confesso che questa mattina la trasmissione era incentrata su un pubblicitario che ha scritto proprio un libro su quelle che debbano essere le tecniche per comunicare l'assoluto. Un improvviso incidente lungo il muro torto lo tiene bloccato in macchina. Se riusciremo a recuperarlo in qualche maniera lo sentiremo, ma andiamo avanti con la nostra missione. Professor Ernesto Preziosi, buongiorno. Buongiorno. Il professor Preziosi ci aiuterà in questo frangente. Ricordo che è un docente di storia contemporanea all'Università di Urbino, ma è anche una persona, diciamo, che fa parte dell'attenzione e della possibilità di comunicare anche ciò che riguarda i valori della spiritualità. Leggo sulla sua biografia che si è anche occupato di questo. In fondo è stato vicepresidente dell'Istituto regionale per la storia del movimento e la liberazione delle Marche, questo c'entra poco, Centro Studi Storici e Sociali, ma ha lavorato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Insomma, lei è di parte in questa mattina, ci aiuta però dalla parte di coloro che comunque sono perfettamente convinti che vada comunicato in qualche maniera, nelle dovute maniere, il sacro, l'assoluto, il valore in sé. Ma senz'altro, più che di parte direi, mi pongo con un'ottica di persona che studia alcuni fenomeni, ma lo fa da credente. E come credente credo che si possa dire che sicuramente c'è un problema di comunicazione, anche nel volume di Ballardini di cui volevate parlare. È molto interessante questa provocazione che viene: come mai la Chiesa non riesce più a vendere, dice lui, il suo prodotto pur avendo inventato. Sì, lui si inventa che è stato chiamato, lui è Bruno Ballardini, che spero che arriverà a questa missione, è un pubblicitario, un esperto in comunicazione, racconta nel suo libro Gesù e i saldi di fine stagione che un cardinale un giorno chiama questo pubblicitario e dice: dateci una mano, dobbiamo comunicarci in qualche maniera. C'è veramente questo problema, perché vede, poi giochiamo col paradosso questa mattina, la notizia del Papa con il tablet che inaugura il sito e i comici che più o meno facevano la stessa cosa. Ci sia sicuramente un problema di difficoltà di comunicazione che sempre esiste a seconda delle epoche, e che non ci sia però da parte della Chiesa, mi auguro, una necessità quasi di rincorsa degli strumenti, delle nuove tecnologie che consentono di comunicare, ma che sia un uso sereno di questi strumenti. D'altra parte, la religione cattolica è una religione che è nata con una forma di comunicazione teologica. Logicamente la si chiama la rivelazione, ed è una comunicazione di non poca importanza, cioè c'è un Dio che manda il figlio direttamente a comunicare la buona notizia agli uomini, quindi fa una scelta che è una scelta, come dire, da un lato di eccellenza, perché manda il figlio direttamente, e dall'altro però indica anche una strada, che è quella del rapporto interpersonale. Cosa voglio dire? Che per quanto si possono usare gli strumenti, per quanto sia giusto aggiornarsi in questa scia, non si potrà mai evitare, per l'annuncio di una fede, di una convinzione religiosa, del rapporto da persona a persona. Ecco, questo in fondo rimane il punto costante, tant'è vero che la crisi anche di comunicazione della Chiesa, anche dalla battuta dei due comici che ascoltavamo prima, era evidente, nasce dal fatto che le comunità cristiane, le parrocchie, cioè le strutture anche della Chiesa, rischiano di essere presenti anche in maniera forte nella società in cui viviamo, ma a volte deboli per quanto riguarda le relazioni umane, i rapporti umani, e per cui la gente magari resta a casa anziché andare ad una riunione, anziché andare ad un incontro. Quindi il punto delicato, secondo me, è rapporto comunicazione, rapporto interpersonale. Quindi, diciamo, l'esempio che abbiamo fatto all'inizio è il problema che ci poniamo sulla forma di comunicare, dato, come lei ci ha giustamente illustrato, che nel caso del cattolicesimo è una religione che in sé è inscindibile dalla comunicazione, proprio perché nasce come una rivelazione, poi calato nell'aspetto pratico, nel quotidiano, nelle infinite forme attraverso cui si mostra questa comunicazione, è necessario fare i conti con una realtà che comunque ha degli strumenti per comunicare. Quindi bisogna conoscere questi strumenti, praticarli, seguire un po' l'onda lunga che oggi trasporta l'emotività comune, o creare delle barriere dando a questi strumenti, in fondo, come spesso si è fatto, lo stigma di strumenti, non voglio dire malefici, ma che perlomeno da guardare con sospetto. All'alienazione dei rapporti tra le persone, questo è possibile. Credo che il punto di equilibrio sia, da un lato, di non diffidarne, di non come dire, considerarli mali in assoluto, e dall'altro neanche di riporre ogni fiducia nella potenza di questi strumenti. Il punto vero è che per un uomo che abbia fede, gli strumenti vanno usati, ma va usata anche una formazione critica, cioè la criticità dell'uso dello strumento, per cui, come dire, anche rispetto a alcune forme che oggettivamente rischiano di portare anche all'alienazione del rapporto interpersonale, ad escludere quello che è il rapporto vero con la persona reale, con i suoi problemi, e a confidare magari in un rapporto moltiplicato all'infinito ma solo virtuale, e questo aspetto io credo che la religione lo aiuti, perché cerca di far incontrare la persona con la persona, quindi d'accordo lo strumento, ma anche l'uso critico dello strumento. E questo in fondo anche nella storia recente, se uno pensa alla pagina di questa mattina del Papa che sfiora il tasto delle pagine, è una pagina che ha una precedenza nella storia per quanto riguarda ad esempio la radio. Anche lì fu Pio XI con Marconi che diede il via. Pronto? Sì, sì, l'ascolto. Ecco, che diede via a questo collegamento con la radio. Se noi guardiamo a distanza di decenni, la radio non ha sostituito il rapporto tra le persone e a sua volta la radio è stata surclassata da mille ulteriori invenzioni, scoperte e utilizzi tecnologici. Quindi, come dire, c'è un rapporto anche di relatività rispetto agli strumenti, che non è il considerarli negativo, ma di pur inseguirli sul loro terreno e rimettere al centro l'utilizzo dello strumento da parte della persona. Questo secondo me è un contributo importante anche di tipo culturale che dà alla fede cristiana, a prescindere da essere credenti o non credenti, è proprio un contributo al dibattito culturale sull'uso dello strumento. Ecco, sentiamo un attimo degli ascoltatori così movimentiamo il dibattito. Paolo, buongiorno. Buongiorno, io parlando di comunicazione penso che chi ha la fede e la cerca questa comunicazione e la trova comunque a prescindere da dove arrivi. Chi non ce l'ha come me, comunque gli arrivi rafforza il suo non credere. Io non è come diciamo la fede come il coraggio manzoniano, se uno non ce l'ha non se lo può dare. Questo mi sembra, ma non so se il comunicarsi serva a tenere unito il gregge o dare direttiva al gregge o cercare di, mi consenta termine, accalappiare chi sta fuori. Se lei sta fuori non credo che si lasci commuovere dal Papa che accarezza il tablet o dagli spot per l'8 per 1000, è il problema più profondo per lei, ammesso e non concesso per lei sia importante continuare a porsi questo problema, dovrà arrivargli attraverso, come diceva appunto il professor Preziosi, attraverso un contatto personale, perché alla fine poi il passaggio di un'esperienza spirituale avviene attraverso la percezione che l'esperienza è passata veramente per la persona che vuole trasmettertela, se no sono soltanto chiacchiere. Enrico. Buongiorno, io chiamo Roma, mi chiamo Enrico. Certo, io ho sempre pensato che intanto è una questione del credere in noi stessi, avere una certa coscienza di noi stessi. E per quanto riguarda il credere è una cosa fondamentale. Se uno ci crede funziona, ma se non ci crede non funziona. Sì, infatti ho sentito in giro qualcuno che non crede. Io ho parlato tempo fa con uno, ho fatto una consegna presso il Corriere, mentre un'onoranza prende un discorso di comunicazione. Quello dice scusami ma io sono buddista, dico sì, io rispetto quello che c'è lì, però dall'altra parte se tu pensi a tutte le altre cose addietro, cioè che vorresti un miracolo per credere, i miracoli si possono pure avere. Enrico, mi sembra che sia l'antitesi esatta della scrittura che ho appena parlato, ha una fede consolidata che non ha bisogno di prove, non ha bisogno di conferme, anzi al punto tale che lei nel corso del suo lavoro fa una sua modesta ma intensa opera di professione della fede, quindi lei già sta comunicando, fa esattamente quello che dice il professor Preziosi e non ha bisogno di cercare strategie di comunicazione. Ecco, a questo punto abbiamo in studio Bruno Ballardini. Bruno, buongiorno Ballardini, buongiorno. Reduce dal muro torto incidentato, autore già di Gesù lava più bianco, ovvero come la Chiesa inventò il marketing, adesso è appena uscito per la PM Gesù e i saldi di fine stagione, perché la Chiesa non vende più. Questa mattina abbiamo iniziato con un rapido esempio del lancio del nuovo sito del News del Vaticano, costruito sull'immagine del Papa che sfiora il tablet, quindi con il suo tocco da Papa proprio, che taumaturgico, lascerà in questa tavoletta la sua impronta, che un domani probabilmente sarà una sacra reliquia, quindi c'è una costruzione rispetto a questa notizia. Abbiamo fatto ascoltare i comici dei soliti idioti che presentano al Papa alcune possibilità di comunicazione, tipo i 12 iPad della legge o fare un sito con Facebook in cui Gesù abbia più contatti di un rockstar e via dicendo. Tu come esperto in comunicazione hai inventato, allucinato, esagerato rispetto alla realtà questa idea, ti abbia chiamato un giorno un cardinale e cosa ti avrebbe chiesto? Ma in realtà il cardinale con molto tatto, con molta delicatezza. Intanto salutiamo il professor Ernesto Preziosi che aveva un impegno, la ringraziamo di averci supportato in questa prima parte della trasmissione e buona giornata professore. Buona giornata Ernesto, ciao. Allora andiamo avanti. Allora, brevemente, l'incontro con questo cardinale è fortuito perché inizia da una lezione che io inopinatamente ho tenuto alla Lateranense per a Scienze della Comunicazione, insomma nell'ambito delle mie discipline. A un certo punto vengo avvicinato da un vecchio compagno di scuola che sapevo che aveva fatto la carriera ecclesiastica. È diventato cardinale. No, lui è un aspiravescovo. In realtà era il tramite. E alla fine io mi ritrovo in un dialogo a contatto con un cardinale che in realtà sta affrontando la più grande crisi che la Chiesa abbia avuto in questi secoli, e questa è una crisi definitiva, diciamo. Ecco, e quindi io all'inizio gli dico, vabbè, la mia disciplina è il marketing, se vuole gliela spiego, e lui prende queste lezioni private, ma lo scopo alla fine era valutare la mia capacità di affrontare un problema complesso, che è questo qui, e mi ritrovo per caso a dover affrontare la strategia per salvare da questa emergenza la Chiesa Cattolica. Quindi tu hai dovuto spalmare sulla matrice che di solito usi per le tue lezioni o per il tuo lavoro, quello che è l'organismo complesso, non soltanto della Chiesa, ma di tutte le organizzazioni ecclesiali, tutto ciò che ci gira intorno. Sì, l'oggetto del marketing può essere qualunque cosa, può essere la persona umana, può essere, se lo dimostra sì. Kotler con l'ultimo libro, che addirittura si rivolge all'anima delle persone, quindi sta in qualche modo scavalcando la Chiesa. E quindi la strategia per uscire, riposizionare un organismo complesso ha dei principi. Quello che io sostengo è che la Chiesa le aveva già usate, quindi non li può più usare, deve uscire urgentemente dall'ottica di marketing, che comunque è un'ottica che serve per prevalere. Tu chiedi alla Chiesa di fare questo gesto rivoluzionario, di mettere in crisi lo strumento di misurazione oggi dell'economia, del lavoro, delle complessità che è il marketing. Sì, proprio uscire, la Chiesa dovrebbe farlo. Uscire, andare via, perché stanno arrivando nuove religioni, concorrenti potentissime, molto forti, studiate a tavolino esattamente, esplicitamente da uomini di marketing, e quindi non può più essere una del mucchio. Se vuole mantenere la sua propria, la sua come si può dire, unicità, che è quella che poi da secoli è la sua eccellenza, deve cambiare strategia. Cambiare strategia in questo caso è uscire dalla strategia. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ehi tu, cosa aspetti? Non stare con le mani in mano, passa al cristianesimo. Se sei musulmista e passi al cristianesimo, hai peccati perdonati per 2 anni e il paradiso assicurato fino a 2 gigabyte. E se porti un amico, il rosario è gratis. E allora dai, vieni con noi e ricorda, Dio c'è e ha la banda larga. E ha la banda larga, signori, è bellissimo. Poi magari ci mettiamo qualche suora col bikini, Questo è sempre il tentativo disperato dei nostri due pretini di lanciare una nuova strategia, di essere moderni, e li ascoltano questi cardinali sempre in penombra, sempre più sconsolati, sempre più tristi, dicendo, guarda, loro capiscono dall'altezza del loro magistero, della loro esperienza, in che mani si sono messi. E il Papa, sempre di spalle, bianco vestito, li ascolta paziente, assorto, come se ormai fossero tutti da un'altra parte. 800 24 00 24. Questa mattina parliamo di come si comunica l'assoluto. Ne parliamo perché Bruno Barlardini ha scritto Gesù e i saldi di fine stagione, edizione PM, perché la Chiesa non vende più. Questo è il problema che è stato posto a Bruno Barlardini. Bruno Barlardini, applicando le regole del marketing all'organizzazione complessa del messaggio cristiano, ha cercato in qualche maniera di rispondere. Bruno Barlardini, mi fai un commento innanzitutto alla notizia di questa mattina del Papa con il tablet, che siamo partiti da quello. E lo dico per quelli che ci ascoltano con profondo rispetto nei confronti di ogni professione di fede, di ogni dichiarazione di fede, di ogni organizzazione che professa un messaggio non soltanto legato ai valori terreni. Però l'analizziamo, in questo momento siamo persone interessate alla comunicazione, analizziamo questa notizia. Ma è interessante perché riporta un po' alla memoria cose antiche, cioè le tavole della legge. Quindi torniamo back to basics, torniamo agli iPad fondamentali. Della legge, come dicevano appunto i nostri due iPad della legge. E non so se il Papa proverà un minimo di imbarazzo per il marchio del tablet, che un po' riporta già ho posto questo problema che stamattina al peccato originale. Sarà insomma. Samsung o sarà Mac? Speriamo che no, non si sa. O uno dei tantissimi, oppure ci sarà un cerotto a coprire il marchio peccaminoso. Il discorso è che sarà 9 pollici o sarà più piccolo? Questi sono tanti problemi. Sono questioni. Il discorso è che in realtà si continua a usare mezzi nuovi, sempre nuovi, per ripetere lo stesso messaggio. Cioè il problema è che loro sono stati i più grandi, sarebbero i più grandi comunicatori della storia, perché devono gestire un prodotto che si chiama verbo. E per fare questo hanno utilizzato da sempre, dalle tavole di pietra fino al tablet, tutti i mezzi di comunicazione nuovi, anche in un media. Sono stati i primi ad avere un sito internet, per esempio, no? Ci ha ricordato prima il professor Preziosi che anche la radio è stato un papa, il primo che ha usato la radio in maniera profonda e intelligente. Esattamente, la RAI gli ha prestato degli ingegneri, tra cui anche mio padre, e quindi si sanno queste cose. Il problema non è questo, il problema è i contenuti, cioè non vengono rinnovati. Io la responsabilità di aver fatto il primo sito internet in accordo tra il Vaticano, mi ricordo, lo feci io. Sì, vedi, ci si ritrova sempre alla fine. Ecco, il discorso è che non cambia il messaggio, i valori dovrebbero essere assoluti, ma poi vengono minati da un relativismo che è lo stesso Papa a produrre come massimo motore di relativismo, quando fa delle cose che lasciano un po' perplessi come decisioni. Io cito sempre l'esempio dei pastori anglicani passati alla Chiesa Cattolica, che convertendosi hanno mantenuto le loro prerogative, sono rimasti sposati. Lui ha dovuto fare una bolla papale per poter fare questa, diciamo, irregolarità all'interno del meccanismo gestionale. E gli altri non erano contenti. E gli altri dicevano loro sì e noi no. Ma noi che siamo figli della serva, e quindi gravissimo questo. Mentre lui, Ratzinger, si scaglia ferocemente contro tutte le forme di relativismo. Allora, signori, decidiamoci un attimo, perché le marche... È come per il riciclo di denaro della società fantasma, converrebbe diventare anglicani, poi sposarsi, poi ricattolicizzarsi, quindi si porta a casa una moglie. Beh, questa è un'ottica vicina a quella di quelli che cambiano partito continuamente, perché noi siamo specialisti in questo. Poi si arriverà anche in Vaticano, probabilmente, a fare così. Ecco, dove sta la chiave di tutto, secondo te? Da una parte, perché tu hai citato in chiusura della prima parte che il vero problema che arrivano nuove religioni. Se poniamo il problema laicamente e crudamente, come degli esperti a cui viene posto il problema, la concorrenza è spietata, le nuove religioni vengono fatte a tavolino, quindi nascono già articolate rispetto alle esigenze dei tempi. Ecco, ce ne sono un paio che sono virali proprio, ad esempio Soka Gakkai, che è quelli che si professano buddisti ma in realtà tramandano un buddismo un po' farlocco, perché stanno al... Quelli Sabrina Guzzanti, questi... Sì, stanno al buddismo come i testimoni di Geova stanno al cattolicesimo. Prova a dirglielo, tolgono gli occhi. Non c'è problema, ci sono, voglio dire, i testi a cui si rifanno sono dei testi minori rispetto al corpus buddista. Però in Giappone hanno fatto un partito. Certo, perché la verità è che il business parte dal andare a mettere un piedino in Parlamento. Quindi la Soka Gakkai è rappresentata da un partito politico e adesso sta arrivando Happy Science, studiata a tavolino da un uomo di marketing, che fa anche lei un partito politico. E si sta diffondendo in Occidente in modo virale. E funziona, purtroppo, perché offrono, come faceva il Partito Radicale una volta, il doppio tesseramento. Cioè tu sei musulmano, sei ebreo, sei cattolico, non c'è problema, la tua religione è una parte di una religione più grande, quindi sei dei nostri già senza saperlo, un po' come i cristiani inconsapevoli della teologia cattolica. Leggo un sms per farti capire il senso della percezione molte volte come è distorto. Ci dicono: siete scandalosi, un signore che non c'è il nome, sdoganereste tutto tacciando come folli fuori tempo chiunque apprezza un po' di moralità nel servizio pubblico. Ma no, non è così. Cioè bisogna aprire gli occhi, Chiesa è in crisi, bisogna aprire gli occhi. La Chiesa non può più far finta di essere l'unico prodotto esistente nel mercato del sacro. Non ho inventato io la dizione mercato del sacro, perché ci sono sociologi della religione come Finke e Rodney Stark che hanno già detto questo. Io e Mara Einstein in America siamo stati un po' più estremisti, siamo andati oltre, abbiamo detto: beh, esiste un mercato della religione, quindi esiste anche un marketing. Questo l'ho detto prima io. Einstein mi ha seguito e diciamo, non si può più far finta di niente, esistono dei concorrenti. Di fronte a questo occorre usare una strategia. Questo naturalmente, perché è una fede incrollabile, una certezza assoluta, una pratica quotidiana che lo salvaguarda tutto, sono discorsi totalmente inutili, me ne rendo conto, per lui. Il rapporto. Però in generale è diversa. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Sì, la sto ascoltando. Allora, mi ha incuriosito la trasmissione, perché per combinazione a me è capitato un fatto esattamente analogo a quello che citate, ma nella realtà però. Io abito in un paesino vicino a Torino e una sera il cardinale era venuto a trovarci e quindi io e mia moglie siamo andati a fare un salto a vedere il cardinale. E eravamo in chiesa, abbiamo fatto due chiacchiere e poi a un certo punto, siccome il problema verteva sulla qualità del cristianesimo, io faccio rappresentante, mi sono permesso di fare un intervento che appunto è come quello del libro. Ma lei col cardinale proprio parla così, come sì, fosse un amico di famiglia? No, diciamo che ho sempre avuto così l'idea che se presentando bene le proprie idee si può dire tutto. Assolutamente, chiunque, siamo qua per questo. No? E quindi mi sono permesso di alzare la manina e fare questo piccolo intervento, e dicendo proprio questo, che io tutte le mattine mi alzo e vado a vendere, e se torno a casa alla sera e non ho venduto, due possono essere i problemi. Uno, che il mio prodotto non funzioni. Due, che la comunicazione sia stata sbagliata. E allora un po' ironicamente, sperando che il cardinale lo apprezzasse, ho detto, tenendo presente che in questo caso di certo non si può parlare di un cattivo prodotto, dal momento che se siamo qua è perché siamo sicuri della bontà del prodotto, probabilmente è la comunicazione che è sbagliata. E cosa ha detto il cardinale? Il cardinale, io mi auguro, e adesso qui cerco di essere sempre ironico, che abbia riflettuto e sia il cardinale che ha poi parlato con l'esperto, nel senso che... A lei pensa di essere il motivo per cui un cardinale un giorno ha dato la Ballardini? Può essere questo, chi lo sa? Voglio dire, era una battuta, però quello che purtroppo non era accaduto è che non c'è stata una risposta... Voglio dire, no, che io l'ho questo fa parte della strategia. Non è stata una caduta di cavallo. Mai dare risposte certe, perché poi uno può cadere in contraddizione. Francesco, sentiamo Francesco. Però... Buongiorno, Francesco. Sì, Francesco. Buongiorno. Sì, l'ascolto, prego. Sì, eccomi qua. No, io volevo citare un esempio storico eclatante. Cioè, quando il Cristo è venuto sulla Terra, era una persona diametralmente opposta ai membri del Sinedrio, piuttosto che alle persone che detenevano il potere in quel momento là. No, lui si è posto in modo... Rappresentava una rivoluzione. Rappresentava una rivoluzione e ha fatto un'ottima comunicazione, un ottimo marketing del verbo che gli enunciava. Si vestiva in modo popolare, parlava in modo diverso, faceva miracoli che sono una grande espressione di fede, d'accordo, però a livello così di impatto, marketing straordinario, perché in pochissimo tempo lui capovolgeva quelli che erano i precetti sacri, quando lui guarisce la donna mestruata, era la cosa più tabuizzata nella società che potesse esistere del tempo, quindi fa delle cose che nessuno avrebbe fatto. Ballardini, la risposta è questa: all'origine ci fu questo gesto così rivoluzionario e totalmente antitetico rispetto alle regole, e per questo funzionò. No, funzionò per un altro motivo, funzionò perché questo prodotto ancora artigianale, senza dubbio efficace, con una grande performance, che aveva grandi concorrenti anche allora, certo, era soltanto una delle tante sette dell'ebraismo, fu creato, ricreato, posizionato da un grande marketing manager che si chiama Paolo di Tarso. Senza Paolo il cattolicesimo, il cristianesimo non sarebbe mai esistito, sarebbe stato soltanto una delle tante correnti dell'ebraismo. Infatti ancora oggi la Chiesa tratta gli ebrei come i fratelli maggiori. Beh, si è un po' rivisto questo concetto, sì, perché era limitativo, erano... certo. In effetti, in realtà, non è stato fatto altro che prendere un prodotto e inserirlo in una strategia globale, perché poi il canale di distribuzione erano le grandi autostrade dell'Impero Romano. Certo. Hanno fatto tutto in modo scientifico. Ecco, senza Paolo questo non sarebbe mai accaduto, perché lui ha... Quindi usò bene dei canali esistenti. Assolutamente, e oltretutto con una promessa molto chiara e addirittura un'offerta già iniziale, nel senso che dava una grazia, cioè tutta la vita di Gesù era stata interpretata da Paolo come un dono a cui noi dobbiamo restituire poi fedeltà, eccetera, fiducia, e lì ha posto i fondamenti della marca, con un marchio che era la croce, che ricorderà sempre il sacrificio umano iniziale a cui noi dobbiamo rispondere. Allora fermiamoci un istante, dobbiamo dare la linea al traffico, riflettendo proprio su quello che ha detto, comunicare un valore, per qua parliamo di marketing, ma comunichiamo un valore, non un prodotto, bisogna essere chiari, e soprattutto il marchio, un marchio forte che oggi ancora, come vedi, dà fastidio, è fastidioso, è oggetto di disputa. Cosa accadrà da questo momento in poi? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800-24-0024, riprendiamo questo interessante dibattito di quali siano le forme, le maniere, le strategie esatte per comunicare la religione. In particolare, in questo caso, parliamo della religione cattolica. Bruno Ballardini è un esperto in comunicazione, in marketing, ha scritto un libro, Gesù e i saldi di fine stagione, edizioni PM, in cui racconta di essere stato convocato, chiamato proprio per una consulenza, e lui sta ponendo i termini della crisi proprio per trovare quella che poi potrebbe essere la soluzione. Sentiamo intanto Alberto. Alberto, buongiorno. Buongiorno, complimenti per aver avuto il coraggio di affrontare un argomento così. Ma grazie a Dio viviamo in un momento in cui ancora nessuno ci mette nell'olio bollente o ci spella che o ci duri. Fa pezzi, quindi che possiamo... ciò duri, no? Perché adesso succedono delle cose strane nei confronti di chi ha il coraggio di parlare di cristianesimo. Ma molte volte questione. La gente, guardi, si autolimita e si autocensura. Non no, c'è... no, ma censuro io, lasciamo stare, grazie perché è una cosa interessantissima quella che avete fatto. E quindi ve ne ringrazio. La mia osservazione è questa: è venuto fuori una specie di critica, cioè ottimi i metodi di vendita del prodotto, ma il prodotto dovrebbe essere aggiornato. Esatto. Ma dunque, lei è del ramo, si vede, lei ha capito perfettamente quella che è la chiave di tutto. Sì, solo che vedete, qui bisogna chiarire fra quello che è il prodotto vero e quelli che sono i contorni. Mi spiego, è stato tirato fuori il discorso della proibizione ai preti di sposarsi. È una legge della Chiesa, non viene assolutamente dal messaggio. È una legge della Chiesa che la Chiesa, come istituzione umana, per il momento non ha abrogato. Prima sì, ma della se l'è data da sola. Non era in vigore. Se rientrasse nella strategia di migliorare comunque l'immagine esterna, uno potrebbe anche rivederle, certo, perché non sono leggi assolute. In tante epoche i preti si sono sposati. Chiesa, quindi fosse quello il problema, si potrebbe valutare, secondo me. Se sì, fosse quello. Non credo che sia la penso anch'io come lei, però il problema è questo. Il nocciolo del prodotto, quello che i teologi chiamano il kerygma, è il fatto che, per chi crede, c'è un Dio che manda il figlio all'uomo per dirgli una certa cosa. Questo abbiamo detto, è fondamentale. Il problema è che questo non è toccabile, non è tangibile. E sono quelli che dicono, diciamo, l'idea dei valori non negoziabili, forse andrebbe ristretta alle cose essenziali. Esattamente ecco. Questo. Non a caso di kerygma. Il fatto è che quello non lo puoi toccare. Sul resto si può discutere, però ricordiamoci che la Chiesa è un'istituzione in mano a uomini che commettono anche errori. Attenzione, però non distinguere il prodotto vero, che è il kerygma, dal contorno, che è più che altro frutto di una strategia, diciamo così. Allora, io penso, per colui che ha una dimensione della spiritualità, la spiritualità rimane comunque, al di là di ogni comunicazione, perché è un'esperienza che deve attraversarci. Quindi se non ci attraversa, noi possiamo raccontare quello che vogliamo. A un livello più ampio di diffusione di un pensiero, di un'opera di catechesi, di tenere insieme appunto il corpo mistico dei fedeli, certo, è chiaro, occorrerebbe che questa esperienza, se è passata attraverso qualcuno, un pochino si vedesse, si adocchiasse da fuori. Bruno Ballardini. Allora, io ringrazio per questa domanda, che è interessantissima. Io sono d'accordo, cioè alla fine del libro sostengo, da stratega, da esperto di marketing, non mi metto a fare il teologo, che occorre tornare alle radici del prodotto, cioè della dottrina. Quali siano queste radici non è affar mio, nel senso che lo si sa, abbiamo parlato di kerygma eccetera, però esistono tante forme di cristianesimo, dobbiamo metterci d'accordo, e hanno diverse applicazioni del prodotto e non siamo tutti d'accordo esattamente. Ecco, posso dirti una cosa, Bruno, da fuori, vista da rozzo osservatore, in realtà l'idea che non esiste solo, ognuno si fa la sua, e questo è grave. Io mi adatto su di me, io dico, io sono un ottimo credente, in chiesa ci vado ogni tanto perché sì, i preti hanno dei limiti, mi sono già costruito il mio sistema. Ma se vogliamo dovrebbe parlare... essere uno. Esatto, se vogliamo parlare di unicità e di distintività e di superiorità, volendo anche, e di assolutismo, bisogna essere assolutisti, cioè bisogna arrivare a un solo prodotto, un solo valore o valori molto ben identificabili, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Per fare questo occorre smontare tutto l'apparato di dogmi che la Chiesa ha accumulato nei secoli, e certo questa non è una cosa da fare in 4 e 4 8 perché non è, ci sono voluti secoli, ma sono dogmi che non appartengono alla dottrina delle origini, cioè meno teologia, più misticismo. La Chiesa, se vuole sopravvivere, deve diventare maestra di spiritualità come le grandi religioni dell'Oriente. Noi ci siamo persi di vista che cos'è il sacro, non sappiamo più cos'è che sia sacro, è svuotato di ogni valore, e quindi qui occorre intervenire, non facendo la messa cantata, ma nemmeno quella in latino. Stai parlando come un padre del deserto, ti rendi conto? Alla fine l'esperto in comunicazione dice, vi manca quell'amore folle di Dio che fa sì che trasforma un uomo in qualcosa che è già fuori dalla dimensione umana. Lo vedo attraverso gli occhi di amici di altre culture che hanno ancora dei saldissimi valori e noi non abbiamo questi valori. Si basa tutto sulla fede cieca del credente, e mentre da parte della casa madre occorrerebbe ricambiare con altrettanta solidità di valori che non c'è. Quindi occorre urgentemente porre mano, altrimenti arriviamo ai saldi di fine stagione. Non sarà che la grande ambiguità è nell'aver sdoganato le cure temporali come cose importanti, quindi gli affari, la costruzione delle compagnie che fanno cose, via dicendo, e poi la professione di una fede. Tu guardi, dici, ma questo qua, tu mi vieni a raccontare a me di fede cristiana quando tutta la vita non fai altro che fare affari. Vorrei dibattito anche dopo, nel senso che non so, scrivetemi, io vorrei magari lasciare il mio indirizzo di posta elettronica. Lascialo, buon allora, per te. Se volete, bcomebologna.ballardini@libero.it. Vorrei sapere da voi che cosa pensate di queste cose, perché è una questione che investe tutta la credibilità della Chiesa. Non è che vuoi fare una Chiesa No, no, in Brasile si può fare con $200, si fonda una chiesa, si ha un regime fiscale fantastico dove può fare anche le TV private. Non ci siamo ancora arrivati. 800 24 0024, però la trasmissione è finita. Ringraziamo Bruno Ballardini, ricordo autore di Gesù e i saldi di fine stagione, edizione PM. Ringrazio anche Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Ci sentiamo domani. Alors tous deux, on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.